perché con l'adesivo non me la dava. Una parte c'ha il coso, l'adesivo con il vetro, e questo qui proprio dove c'è il coso tondo, dove c'è scritto protezione civile, però al vetro non attacca. Che il vetro praticamente ce n'è, uno lascia, se tu li prendi un po' e non attacca uno con l'altro. Ma così me l'ha venduto quello lì. Tu devi vedere la parte, dove praticamente c'è una parte che attacca a quella della divisa. Sì, su quello sì, perché ti spiego. Una parte c'ha l'adesivo dietro, c'ha quella specie di protezione, no? Io la tiro su e si sente l'adesivo, e quella è la parte che attacca la toppa. Però quest'altro che ho in mano, il petto dove proprio c'è scritto protezione civile nazionale, io lo metto sopra il vetro, ecco, lo metto così, schiaccio, però non attacca. Perché tu che hai sbagliato sicuramente il tipo di vetro, cioè praticamente ce n'è uno maschio e uno femmina, mi ha detto chiaramente, praticamente il maschio è attaccato alla femmina. Eia, ma era dentro la confezione già, come me l'ha venduto. Ho capito il vetro, ci sono confezioni di maschio e confezioni di femmine. Se tu compri con la femmina non attacca, e per farti capire più o meno com'è, no, devi comprare tutti e due i tipi, capito? Io già ti ho capito, il fatto è che lui, il petto, il come te lo posso spiegare, mannaggia. Allora, questo qui, dentro la bustina, era diciamo che la bustina era sigillata, no? Io come sono venuto qui a casa l'ho aperta e da una parte c'è il vetro con l'accoso, con l'adesivo che attacca all'accoso, alla giacca. L'altra parte la sento troppo liscia. Perché tu devi guardare la parte della divisa, perché è quello che attacca la divisa, tu vai, la attacca la divisa allo stemma, con la divisa, oppure se vuoi guardare la divisa, praticamente, aspetta, tu devi dire, ma c'è la divisa, non sta scendendo. E tranquillo, non c'è problema. Allora, la storia è questa qua, tu compri il vetro che praticamente aderisce a quella che c'è sulla divisa, il vetro che avevi attaccato. Allora, nella parte dove ci va questo adesivo non ce n'è, però io quando ho comprato questo coso, questo stemma, stasera, lui mi ha dato nella confezione il petto del coso, del vetro, dove dietro c'è la colla, ok? E quello ci siamo, quello lì l'ha attaccato allo stemma, No, quello va attaccato alla divisa, questo pezzo qua è di vetro e si sentono i puntini, no? Poi ho in mano io adesso quello colorato, verde, rosso e bianco, quello rotondo grande, dove c'è scritto protezione civile nazionale. Quello l'ha attaccato tutto quanto, invece che col vetro mi sembra che l'ha attaccato tutto quanto. Cucito, e mi sa che faccio prima a fare anch'io così. Addirittura me l'ho fatto io perché Liliana mi ha detto te lo faccio domani e io avevo fretta, dovevo usarlo, quindi me l'ho fatto io, là, ho dato due punti così e via. Io ho preso anche, mi ha dato anche cose da attaccare, la scritta dietro con triangolini e tutte cose, però mi sono preso anche al posto della bandierina, come ce l'hai tu, lunga, italiana, quella qui ce l'hai rettangolare, e io ho preso proprio lo scudettino in coso, in panno, verde, bianco e rosso. E io ce l'ho tutti e due, cioè c'è la bandierina che è lo scudetto, comunque la parte di dietro cosa ti ha dato? La scritta più lo stemma, così è? Positivo. E invece a me scritta non me l'ha dato. E allora te la fai dare, perché io ieri gliel'ho detto, io la voglio completa come ce l'hanno gli altri. E me la faccio dare, ieri gliel'ho detto a Franco e ha fatto l'Uniurri, ho detto guarda che io non ce l'ho la scritta, c'ho solo lo stemma e basta. Ehi, ci accapita, forse domani un salto ce lo faccio, se mi libero, se per le 7:30 riesco a liberarmi, e ce lo facciamo un salto e te lo prendi. Ma che venerdì, ui, ma siamo belli. Io non ci voglio stare però, dire. No, io vado e poi me ne vado via subito. Che ho un sacco di cose da fare, altro che starmene lì, non sono passati quei giorni. Ieri ne abbiamo finita alle 11:30 passata. Quindi non è che il servizio non è stato fatto. E nada? Nai. Oramai, casino, riprendersi è come la crisi che c'è adesso. Piano piano già. Il brutto era se c'era da correre la mattina sera, ma perché così se si fanno pian piano le cose? Già si sistemano anche quelle già. Io me ne vado a casa, dai. Ci sentiamo magari più tardi, se ne è Puglia. Io adesso vado a casa e poi vediamo un po', dai. Non so se mi metto al computer, adesso vediamo, perché sono 3 o 4 giorni che non mi attacco. Ehi, non preoccuparti, tanto mi qua sta arrivando, se non ho sentito male, come ho passato il telefono a Lella, forse sta passando mio cognato con mia comare, adesso vediamo che ora si fa. Bravo, auguri. Grazie, ma speriamo che si faccia presto. Ehi, ci sentiamo domani a Giuseppe. Ciao, ci sentiamo Giuseppe, stai bene. Cava, altrettanto a te già, ci sentiamo, ciao. Hola. Ma cosa risolvo? Scusate. Allora Giuseppe, e te mi conta già? Scusa, io dopo ti raccontare. Io dopo ti racconti, tutto tace e niente arrosto. Hai capito, Antu? Gaffa gaffa. Oh, yeah. È andato a sabato. E dopo domani è sabato. Ascolta Giuseppe, ma tu conosci nessuno che ha la scheda premium? Scheda premium? Mio fratello ce l'ha, perché? Ma chiedili a vedere se vede anche il Cagliari. E volarci, forse sì. Per quando? Ho detto se si può vedere anche il Cagliari, perché c'è una promozione, c'è 19 euro al mese. Se io mi guardo la mia partita che piace a me, che io l'acquisto, ma se nemmeno mi fa vedere il Cagliari, cioè, io almeno non l'acquisto. 19 euro al mese, mi sembra meglio di un Sky o qualcosa. Che lo faccio, non mi interessa niente. Adesso devo provare a chiedere, non lo so, domani ci devo salire e gliela chiedo, e poi ti dico tramite a baracchino se la vedo o no. Caffa, o com'è, glielo chiedi, perché se è così io me la sto comprando, cioè mi faccio l'abbonamento, 19 euro al mese, cioè, e me lo guardo, perché è la squadra che piace a me. Ma se non vai chi ci lo lascio perdere, me l'ascolterò sempre la radio. Quando c'è 5 minuti di tempo passa il circolo, tanto lì sarò verso le 11 e mezzo, sono al circolo. Se vuoi venire sono lì e li chiediamo assieme, capito? Gaffa gaffa. E adesso vediamo. Se ce la faccio, perché già lo sai che io non ho tempo di nulla. Caffa, figa. Ruia. Per me tutto a posto, là. Tutto a posto. Ruia, per carità. Gianni, doppio ru, rientratoci. No, mi sono accettato perché è caduto una cosa, era un telefonino, non era niente. Intendo una cazzata già. Cosa tu? Dovevo intendi una cazzata. Nara! Scusato che io attacco di contento parte e fare il disturbo del televisore. E chi l'ha detto? Con il cappella. E chi ha nel ciclo di vecchia, no? Mi ero rubato lui. Allora ho un mascocco. Già so che entrando in poco. Dopo che so che entrando in cazzo faccio pure la cuse. Fare un raio di sbaglia. Ma lo sai cosa, vedi cosa pure in dire? Chissà cifra. Non ne hanno manco un'idea, non ne hanno. Io sì però. Oi. C'è Caranita che si rimbalza. No, sempre il solito capo di cazzo. Secondo il Giovanni ne hanno un'idea cosa hanno effettivo. Cioè, ma secondo il Raglie che era assente, lasciamo perdere qua. Capomacco che vale. Io, per carità, e baciava la recita mercante, anche la sai io. Ma uno me ne basta. E infatti non copre manco prendersi, lascia le dita. Non so cosa fare, dice cazzata. E accusandomi, ma non ho un'idea cosa so su questo fatto. Guarda, è una giustizia. È una roba da parte. Prima di tutto, sennò che ci sarebbe un casino nero, attaccando 500 fatti. A chi no, come ti avrei portato su di tutto? Cioè, poi anche la parola bisogna saperla dire, perché io so che cosa sono 500 watt, è lui che non lo sa, ne con le macchine che le butta in capo. Ma chi l'hanno detto? A te? Questa è un'altra persona, ma non mi ha dato una tua un cazzo. Che allucinante. Ma voi direttamente ho dei denaro, tra di denaro all'asso. E tu che ti racconterò del pacco rubato, non mi sa che c'è la pazienza, che no, non è a buon punto con nessuno. E via, cavaga, ha fatto bene, vivi, ti avete tranquillo, ha fatto bene che se ne dirassi. Tanto la gente avrà sempre da dire che fa bene o che fa male, ha sempre da dire, per cui lasciali parlare. Già smollenta il brodo. Gappa. Poi ho imparato anche un po' di cose, imparato, quindi so che cosa vogliono dire, infatti, so che cosa dire, perché oltretutto ho trovato una persona con cui contrapparle, adesso ho capito molte cose, ho capito. Quindi ho anche un pochettino studiato, quindi posso fare tutto, posso dire tutto questo che è, un apparato, una cosa, è che c'è qualche cosa so, e di che non comprende né un H, canto un gabusoglio. Lucrezia, rientrata sì. Ma ancora? L'hai vista su Facebook, c'è una tipa che sta dando un cagnolino piccolino, un bellino. No, non l'ho vista, ce l'ha tutti comunque, no, chi è questa tipa? E forse te non ti appare perché non c'hai i contatti di amiche, capito? Io ho le amiche dei contatti, appare anche lì, c'era scritto chi volesse adottarmi, prendermi con tutto il cuore, telefonare al numero, c'è il numero di telefono. Non l'ho vista, boh. Io non so neanche c'è un nuovo baracchino, adesso l'ho acceso, sto qua, bugia mia, da stamattina è acceso. La stamattina perché devo scaldare, no? Un po' l'ho acceso. Ma ieri non sono giù e non entro neanche così. Adesso è stato un vecchio attimo, così lo faccio scaldare un po' e poi lo ristacco. Ah, proprio Gianluca, Gianni, non mi so quella cosa su Facebook, eh? Io no. Ah, guarda il mio profilo. Adesso ho staccato, no? Anche se guardo domani, Me ne sono dimenticato di andare a guardarlo. Gappa, tu mi sarai, Luca? Un attimo. Yeah. Guardatela. Cosa si tratta? Di cosa si tratta? Come l'ha chiamato il contatto oggi? Edoardo Usai. Eia, l'ho beccato. Gli ho chiesto l'amicizia. Vabbè, già vi conoscete abbastanza bene. Sì, era messo più in pari, quando era Sassa era messo più in pari. I servizi sempre insieme, ci facevamo, tutto quanto. E con Edoardo bastava un'occhiata, ci capivamo al volo, con gli interventi era bravissimo, non ne potevi dire nulla. Ah, dimagrito. Diviso sì, non l'ho visto di corpo, però diviso dimagrito, lo sai, è tutto pelato. Gappa. Ma secondo me allora, cioè, non doveva essere così transandato. Secondo me a lui conveniva fare sport o fare qualcosa del genere. Se il periodo che ha lavorato ne fa la dombe di chili, è diventato magro magro, stava anche bene, guarda. E purtroppo il fatto che lui rimaneva senza lavoro si metteva a mangiare e poi la pasticcione mangiando, mangiava di tutto. Adesso dice che si deve fare l'operazione, l'ultima volta che è venuta a trovarci al CISO, perché lui è un continente, è sposato in continente, no? E l'ultima volta che è venuta al CISO a trovarci ci ha detto che gli dovevano mettere l'anello nello stomaco. Sì, se avrebbe mangiato di meno, e al tempo libero avrebbe fatto sport, non gli era successo quello. Tutti e due ho visto della Magnusia Vani, e la moglie, tutti e due. Adesso si stanno mettendo a dieta tutti e due, stanno facendo questa operazione, non lo so se la fanno oppure. Edoardo anche a Sassi di Realista e poi si era cancellato perché aveva saputo che dovevi mangiare tutta la roba sminuzzata e quando andavi in bagno facevi un bel odore, non potevi mangiare più di quel tanto lì, e dice ma io devo acciappare una cosa che si mangia un bel e non si ingrassa. Se si acciappo chi si ammira a voce. No, i sacrifici vanno fatti perché uno deve, quando si fanno lavori così, secondo me, al momento libero bisogna fare forza, bisogna essere sportivi, andare a correre, andare in palestra, fare qualcosa bisogna fare, proprio per tenersi in linea, i capelli no andino a fare. Si dipende da come si dice il passaggio, la mala sorte, la mala baccara con i lampioni scappa, e secondo me lui ci doveva tenere una certa linea, cioè dopo il lavoro, la domenica quando ha tempo andare a fare, iscriversi in qualche palestra, cioè, o fare corsa, o cioè fare attività sportiva, cioè fare qualcosa, cioè non puoi andare così. Io perché sono tutto il giorno in movimento, se no è entrato come se quando ero un poveretto d'anni fa, è entrato con la magliettina e il numeretto. E Antu, Edoardo fa un lavoro che è un po' sedentario, fa la guardia giurata, quindi lui guida i furgoni portavalori. Beh, ma al momento libero ce l'avrà. Sì, finisce alle 2, fa dalle 7 alle 2 e poi ha finito. Allora, bisognava che si date una mossa, cioè, no, non esiste. Lo so. Purtroppo lui oramai è sposato là e viene solo qua a trovarci, boh. Beh, ma giustamente che viene qua a trovarci, però pure là ci saranno dei posti dove andare e fare, cioè tenersi un pochettino in forma. A giudizio, se ero, non ero stato travagliente, cioè ero stato facendo qualche altra cosa, cioè ho usato travagliente che ti travaglia da signorino, la sera al tempo libero, quando ho tempo libero ho usato con magliettina, pantaloncini e scarpette. E vabbè, tu lo puoi fare anche la domenica volendo, adesso no, ma quando hai tempo libero la domenica tu lo puoi fare volendo. Edoardo mi ha ingrassato un mese, l'ultima volta che l'ho visto, guarda, era spaventoso, non l'avevo mai visto così grosso. Non ho degnato di dirgli niente per non farlo rimanere male, ma era una cosa spaventosa. E adesso sicuramente andiamo verso l'anello, perché di viso è dimagrito un casino. È venuto con una passa, a te stesso un velo, una bella macchina nuova. E non sta facendo la grana, è visibile a 2.000 euro al mese, 2.200 euro mi batte. Vabbè, ti aspetta, non credo già. Ah, l'ho lasciato in parcheggio a Giuseppe. Dice anche lui. Sto ascoltando, si è tenuto tranquillo, non c'è problema. Cos'è? Grigia. Ma mai pensato c'è di fare la guardia giurata fuori? Fuori? No, quello no, non ci ho mai pensato. Ma non so da dove partono, che cosa dobbiamo fare, capito? Giuseppe, già mi informo io, là. Se mi dà l'amicizia questo amico mio ha cambiato 4-5 posti in poco tempo e ne cercano sempre l'incontinente perché non c'è nessuno che ne vuole fare. Figlio, se è possibile, lo dici, fatti dare i documenti, cosa ci vuole, io la domanda la faccio, poi se c'è da partire pure partiamo, no? Non è quello il problema. Qui a Oderzo, vicino a Treviso. E ha cambiato già tre, mi pare, istituti. Sempre andando e migliorando come stipendio. Beh, non c'è problema, già. Non sai che bisogna avere buona volontà. Se mi dà una cosa positiva di partire, che mi accettano la domanda e me l'accettano, io sto partendo anche domani, mi hanno preso. Per me non c'è problema. Vabbè, io ti faccio sapere, dai. Ho schiacciato il dito pestato, questo roba di liquido è uscito. Il dito pestato? Guardate, c'è come un ghiel viola. Praticamente mi risultava tutto l'angolo dell'unghia, no? Gonfio, alto. Cosa ho fatto? Poi l'ho buccato, c'è un po' di liquido. E allora c'è l'unghia incarnita tu. Assurdo, grazie, va. Ma sto facendo solo sangue, bu. Sangue a posto, si vede proprio è nero. Qua. Isso, allucinante, cazzo. Ma che te cazzo darà che cosa sopra, che non ti ricordo che ti sei abbizzato. Ah no, ma è che era un gutto, gutto, gutto, ma è l'agretto, dai, capivo, che cazzo, allucinante qua, to, to, to, c'è un sangue a questo, to, ciao, mi piace, signore, dice, è portato la sata l'unghia, Ma è possibile che ti ne scende così non è stata bifattina? Che mi faceva già male, un po' faceva male, questo ragazzo che è fatto di come mi ha evitato, un po' me l'ha schiacciato il piede, ma non più di tanto, dai. Ho messo il piede sopra. Via. Allora magari il colpo che ha preso, magari non è che te l'ha pensato molto, però magari con la forza le ha fatto quell'effetto lì, oppure si è delicato, cosa vuoi dire? Ma non è possibile che senza nulla si formi questo liquido, sangue pesto, roba genere, se il sangue pesto abbia dovuto anche goccio, sicuramente. Questo qua c'è anche l'altro, vediamo, questa qua, la roba di liquido, va. Ma ora se mi passa, dolore. Ma ce l'hai fatto vedere? Sì, mi ha detto, qualcosa così mi hai visto, è vittoria mia. Strano, mi ha preso il colpo. Ma tu hai detto, non so, c'è un po' di scarpe, dietro la tennis. Ma va. E sta va. Vabbè, spera solo un attimo. Andate. Giuseppe, niente. Questo amico mio tramite un giornale partito, l'hanno subito assunto, avevano già fatto la divisa su misura perché lui è grosso. E gli ha detto, ma sicuramente non ci avete la divisa, non si preoccupi, lui mi dica che taglia c'ha e noi gliela facciamo fare su misura immediatamente. E quando lui è arrivato ce l'aveva già pronta. Ha fatto niente, ha fatto tirassegno qua, al poligono, e poi mi pare che la prefettura di Iodese di Treviso, perché lui faceva due regioni, due città, Oderto, Treviso, sono due prefetture diverse, e allora l'ha fatto in due prefetture la domanda. E faceva 300 km ogni notte e andava a mettere i bigliettini sotto le serrande. 300 km. Immaginate cosa faceva di chilometraggio. Andava, si faceva tutte quante le serrande di che aveva e poi si era ritornava indietro. E a lui aveva avvisato un amico di Sassari, che era lì già, che stava lavorando. Poi questo amico di Sassari ha avuto un incidente grosso con la macchina di servizio, è stato ricoverato per un bel tempo, eccetera, eccetera. Appunto perciò chiedi già a quell'amico tuo cosa che documenti ci vogliono, glieli faccio e glieli spediamo, poi sapranno loro cosa, se non mi ha risposto o no, è già finito. No Giuseppe, io ti faccio una cosa, io mi faccio dare un numero di telefono dell'agenzia, della ditta, così tu ci telefoni, ci parli tu e ti arrangi tu poi. Via, fai dare il numero e poi ci telefono io, tramite il cellulare, carico il cellulare e li telefono e poi voglio vedere cosa voglio come documenti, hai capito? Cava. Vabbè dai, riprendi popolo dai che ci... Aspettativa. Che calma. Se ti conviene, Giuseppe. pure, tanto qua non c'è speranza, non c'è. A manco se ti bigliano i ghibi, c'è qualche speranza che puoi stare bene. Ti fai il tuo, cioè, piano piano, cerchi di metterti a posto, di fare il tuo conticino e tutto, no? In modo di stare bene. Giustamente uno va, se parte pure va per imparare e per avere un posto fisso, almeno a quando arriva la pensione c'è qualcosa, capito? Scappa, bisogna darsi da fare, e già l'età avanza e poi... Via. Ma io comunque se avrei fatto una cosa del genere, di prendere tanti soldi così e stare bene, bene, bene, bene, avrei fatto una cosa, mi avrei fatto il conticino in banca, mi avrei fatto. Dopo il conticino mi avrei fatto, piano piano mi avrei costruito una casa qua, quando è arrivata la pensione me ne ero venuto qua, con tutto pronto. Certo che pensione ce ne sia, buonasera. Ciao Alessandro. In compagnia di Bombolo e di Leoncino e di Luca. Capa capa, avanti Luca. Ciao Alessandro, ciao anche Alvara 1, che ha fatto due colpi importanti, mi è sembrato lui, eh. Oh, sentivo il capo di voce, con la speranza che mi ascoltate ancora, eh. Bella buonanima, buonasera. Buonasera a tutti, non so se funziona ancora, comunque se mi avete risposto vuol dire che funziona. Funziona, funziona alla grande come al solito, dai. Alla grande. Avanti Bombolo per Sandro. Ma buonasera Sandro, saluto le presentito. Ok, capo. Ok, dai, buonasera circolare, tutta la ruota, ben ascoltati. Ero qua un attimino facendo l'ascoltone, dai. Ok. E niente, ok, ho sentito qualcuno in basso sottofondo, però non sono riuscito a tirarlo fuori. Quindi tu, già, fai girare. Non lo so, chi è che... Antonio, riprendi. Non te lo riprendi, riprendi tu, Leoncino. Buonasera Sandro, ben ascoltato. Cosa si dice dove sei, Sandrino? Ok. Ciao Leonci, buonasera. E ben ascoltato. E Leonci, cosa vuoi che ti dica? La parola sta girando sotto la solita sostanza. È inutile stare lì a continuare a girare il minestrone, però, come dire, il minestrone è sempre tale quale, non cambia niente. Campanerogero, vabbè, gira, rigira, e la minestra è sempre quella, Vicandri, il discorso è quello, lavoro non ce n'è, siamo qua, e tiriamo avanti con la salute, poi se ce la lasciamo tirare, se no ci toccano anche quella, fra poco paghiamo la tassa anche per quella, hai capito? Ok, e purtroppo arrivato a questo punto, insomma, bisogna stare sempre su chi va là. Vabbè che la salute è sempre la base principale, capito? Però purtroppo gli acciacchi, come dice, gli acciacchi sono sempre dietro l'angolo. A chi più, a chi meno, c'ha sempre, ognuno di noi ha le sue pregare da grattarsi. E vabbè, vai. Bravo, riprendi a tu. Tu si deve essere spostato. Pierpaolo, riprendi tu. Capo. Io e Corsano ho sento, se lui si ascolta me, io però lui non lo sento già. Ma passando, non lo sentito Pierpaolo? Ma guarda, c'ho qua a Roma e Santiago modulando qualcuno sottofondo, però non riesco a tirarlo fuori. Ho cercato di chiarificare, di fare qualcosa, però niente da fare. Dove sta modulando? Sempre dalla zona di Bombolo, dai. No. Negativo da parte mia, non so se riesce a tirarmi fuori. Non lo so, magari in quale condizione sia, magari trasmettendo. Niente, per fa, non ti ascolta. Va per gli altri amici, dai. Non mi ascolta? No, negativo. Come mai, dove? Che zona è? Forse nulla. Negativo per me, è tutto Torres. Lo so. Bu, caragana. Io perché sono aperto e riesco a sentirlo un po', se no se ero stato dall'altra parte non ero riuscito neanche io a sentirlo. Ma non ascolti a me. Certo, io sì che non ti ascolto, ti dico una grande bugia. Ti ascolto. Non per niente, ti ho salutato, forse male non mi hai sentito. Io sono impegnato qua con quest'unghia maledetta, va. Ma sta facendo uscire gli occhi. Ma è allucinante. Ci vuole lo schiaccio, riesce sempre. Praticamente dentro, siccome ho fatto un buchettino, no? È uscito un bel po'. Mi sa quel pezzo sicuramente perché non è pus. Però dentro, se io schiaccio, si vede, perché lui è trasparente, si vede ancora liquido, ma non esce. Ma che mi dà che infezione, no? Infezione da cosa, si vogliono ribotti, io non ho toccato niente già. Quale infezione? Solo avrebbe preso anche gli altri, le dita, no? Sì, vabbè, cosa c'è? Tra un'infezione ti può venire anche così. Ti tocchi con le mani sporche, cose del genere, ti viene. Non è che sia per forza una cosa a caso. Anche a me è successo, ti sto dicendo. Basta che ti tocchi con le mani sporche, cose del genere, ti viene l'infezione. Non ci vuole nulla. Comunque sicuramente le pellicole perdo. A me le femmine perché dentro c'è ancora liquido, va. Guarda, però la sacco, no? Farsi pure che si taglia unghie, non so, ma no, anche perché le altre non hanno niente, eppure ho usato lo stesso taglia unghie già. Lui nell'unghia, negli angoli a volte si incarnano. Se tu magari ci vai a fondo col tagliunghie per tagliarle può succedere. Non ti dico che te le hai mangiate perché quelle di piedi non te le puoi mangiare. Fatti per fa. La salita a te me le mangio sempre. E vabbè, da bughere tagliati. No, ogni giorno me la faccio, questo un po' e me la faccio in salata. No, però è una cosa molto strana, perché anche il medico mi ha detto, la parte di stamattina, no, il medico di mia madre, perché la mia è un po' rompicoglioni, e allora non ci sono neanche andato. E ho detto, scusi un attimo, guarda questa cosa. Dice, ma hai preso il colpo? Però colpi non ho, vabbè, diciamo io non mi hanno schiacciato, ma così proprio leggero, perché lui ha detto, mi fa male il piede, come ti fa male questo? Perché poi ci c'ha due, allora un colpo me l'ha dato, ma l'altro non l'ha toccato già assolutamente. Infatti io mi sentivo un dolore, tu strano, mi fanno male gli alluci, e poi colpi non ho preso, ma anche prima di prendere il colpo. Capito Gianni? Infatti anche il medico è rimasto meravigliato, dice, mi sembra strano, ma ha preso colpi, mai visto una cosa del genere, mi ha detto. Infatti, mi ha detto, cosa posso fare? Al momento non puoi fare niente, aspettiamo un po' cosa ne esce. Sono saltato fuori, perché quanto ne è saltato fuori? E poi hai qualche problema, vieni, lo guardiamo, ecco. O mi manda da qualcuno per farmi controllare. Boh, lì c'erano le scarpe strette, in quel punto lì. Oppure ho qualche tipo di infezione sicuramente. Ho tirato l'imbissardo, ma tu dici di no. Non ho preso il colpo, poi se l'ho preso prendo la parte solo, non bisogna tutti e due i bassi, difficile. Quindi adesso prima erano viola, adesso come non è vato tutto quello liquido c'era dentro, sono bianche di nuovo. Ma che liquido c'era? Pus. No, liquido non ti posso dire. C'è presente il sangue diluito con l'acqua che diventa color rosso lì, trasparente, vai, diventa, cioè non è rosso rosso, è figlia del rosso lì, quello rosato, c'è presente, così. È siero, era siero. Così diventa, è così tuttora. E c'è un bel becco ancora, Si vede uno schiaccio, si vede, diciamo lui, l'unghia è bianca, che si vede il liquido, dopo là, non lo pulizziamo, ma chissà, non li prendo. Ok, Luca, comunque poco fa ho salutato tutti circolarmente, se controllo, diciamo, senza fare di affari nominativi, tutto lì. Ok, niente, Luca, non so fare su quelle cose, perché, allora, quel sangue dovrebbe essere, diciamo, il sangue quando c'è, via, diciamo, una pezzatura. Una pezzatura che il sangue, diciamo, si accumula nella parte, diciamo, resa. Quando per dire ci mettiamo l'unghia, rimane il sangue lì e così via. Evidentemente ha avuto qualche pezzatura o qualcosa del genere. Allora, c'è un paio di scarpe, praticamente, ma leggermente mi toccano, leggermente l'alluce, ok? Forse magari, siccome io cammino poco, sono sempre morto, vabbè già due passi me li faccio, ma non più di tanto, però sabato ho camminato dentro la dove stavo lì a una festa, no? Dentro questa sala, camminavo e più mi sono messo a ballare, boh, non so, forse magari il dito mi ha toccato proprio la punta della scarpa, non so, boh. Comunque ripeto, il piede destro me l'ha schiacciato, apposta. Infatti ha detto, che piede ti fa male? Sai la gente come è fatta, ti dice, fa male questo qua, pure te lo schiaccia, vabbè. Comunque non mi ha schiacciato un bomb forte, capito? Ma l'altro non me l'hanno toccato. Infatti sia questo qua il dito, che l'altro sono viola. Infatti, il medico è rimasto un po' maravigliato, dice, non ho mai visto una cosa del genere, senza aver preso colpo. È dovuto alle scarpe, te lo dico io. Sì, ma dico una cosa, hai detto, te lo senti addormentato oppure te lo tocchi e senti che è sensibile? No, il dito non c'ha niente, Sandro, è l'unghia che mi fa male, se io schiaccio sull'unghia mi fa male. Ho capito, dai, in effetti è lunga, diciamo, che è andata a comprimere il suo dito, dai. Avendo le scarpe strette, ha compresso, diciamo, l'unghia al suo dito e quindi ti ha fatto, diciamo, quel lavoro lì. Adesso un po' di liquido gli ho levato, dai, perché era troppo il dolore. Adesso un po' meno, sì, un po' meno infatti. Sì, vabbè, avanti Gianni, poi domani vediamo un po', la limite di non dico al medico. Non vedo buffonello, io ti sto dicendo che da un ematoma per poco hanno dovuto aprire, perché il mio dottore mi ha detto, ti metti una pomata, ero caduto nelle scale, ho sbattuto la schiena, proprio via Camita lì, a Porto Torres, è stata mia sorella a portare roba, stava piovendo, ero le scarpe da tennis. Sono caduto e ho sbattuto la schiena, che se mi è mancato il respiro, non c'era un'anima viva, mi sono adagiato su una macchina, non riuscivo più a respirare dal colpo che ho preso. E poi sono andato a lavorare, ma stavo lavorando, lo so solo io come stavo lavorando perché mi faceva male tutta la schiena. Il principale mi ha detto, non vuoi sedirti? Come fa una boccia, bisogna cadere, si posa, no? E io gli ho detto, no, non ne voglio di sedia, ma ne sto andando. Perché te ne sei andato? Perché mi è successo questo, gli ho fatto vedere la schiena, oi, dice, vai a farti vedere, vai. E sono andato, quando stavo guidando sembrava che avessi un cuscino dietro la schiena, come se avessi un rimbombamento, quei cuscini che prendono, questi lì che prendono la conformazione, no? Siete presenti che sono belli morbidi. fatto sta che sono andato dal medico, mi ha visto questo ematoma e mi ha detto, vedi, ti metti un po' di fuoco questa pomata e ti passa in 15 giorni. Adesso questa cosa non passava mai, non passava mai. Un giorno sono andato all'ospedale con l'ambulanza a fare servizio, c'era il dottor Caffè, il dottor mi controlla per cortesia. E c'è questo. E questo gli ho detto, è successo così e così, ma il dottore mi ha detto che con questa pomata passava, ma mia moglie mi sta dicendo che ogni giorno mi cambia colore, verde, giallo, eccetera, eccetera. Immediatamente il fuso in sala operatoria, cos'è che me ne ha visto? C'avevo tutto il sangue infetto, mi ha dovuto fare la trasfusione, fare l'inizio di penicillina, sono stato 20 giorni ricoverato. Già, ripeto, io forse magari per via delle scarpe che erano un po' strette, macchino i cuzzi, non ero ubriaco, ero allegretto, ecco, non c'è trappismo, non so si tolto. C'era un dirigente, però i piedi non me ne hanno schiacciato, ripeto, ma ha schiacciato solo quel tipo, che infatti lo dico, mi ha invitato, ma l'ha fatto così, senza forza, ma l'ha dato un colpito alla vita. Se mi ha dato forte, là mi sarebbe fatta qualche mano. Se mi ha dato forte, devo essere sincero. Però l'altro sicuro non ha preso colpi. Non sono sicuro io che è sicuro. Non lo so, perché non è che ci stavamo ballando, io stavo diciamo, uno spazio magari più aperto, ecco. Però non me ne hanno schiacciato, l'altro zero negativo. Ma solo il fatto che tu gli abbia detto che ti faceva male vuol dire che tu già da prima di schiacciartelo avevi il dolore, quindi probabilmente sono proprio le scarpe, eh. Sicura che avevi la scarpa, ma non me l'ha mai fatto la scarpa, strano, è quello, dubito su quella scarpa lì, perché sono uguali, sono tutte due Nike, perciò non lo so, vabbè. Avanti, molto Giuseppe, ci sei ancora? Sono lui, e a volte succede queste cose che la gente ti viene, ti mette il piede sopra e tu non hai capito. E poi non capisco questo fatto, uno gli fa male il piede, gli mette il piede sopra per fargli più male. Bello, sali, gode vasigis. Bombo, lo riprendi. Allora, già l'ha fatto questa volta, non vuole capitare la prossima volta, perché la prossima volta lui reagisce come dico io. Beh, io la vedo un po' tribula, che cazzo, cioè uno gli fa dei marubini invece di aiutarle a fare qualche cosa per farlo sana, gli fai più male ancora, no? Così non va bene. Però me l'ha fatto proprio per farmi male, proprio quel giorno me l'ha tirato comunque, diceva un po' già, ma niente di che, dai, la prossima volta non ci sarà, tranquillo, perché io l'ho visto, l'altra volta ci siamo divertiti, abbiamo ballato, abbiamo fatto, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, però la prossima volta non posso andare a mettere i piedi sopra, perché è meglio che mi zitti, così gli dico, vediamo poi come reagisce lui. Poi se lui va per la puntiglia, poi lo tempo, lì comincia a fugare un proteggio. No, le mani sono sempre da evitare. Qua oggi poco ci è mancato che le mettessi le mani addosso a uno, e cosa mi ha fatto? Mi ha stretto vicino al semaforo della Grigli, no? Io sulla corsia mia, questo che ha nell'altra corsia, poi il corpo si stringe e cazzo me lo trovo davanti, senza mettere freccia, senza nulla. E si è fermato al semaforo, l'ha gesunato. L'ha preso e se ne è sceso dalla macchina questo qua, dice cosa vuoi? Col telefono in mano, no? E ho detto cosa vuoi? A chi non te ne sei abitato, ti sei fatto, che mi hai stretto la strada. No, non me ne sono accorto, e per forza, detto, c'è il telefono in mano, per forza non te ne accorgi. Ma mi hanno chiamato, ma tu devi fermare da una parte, che dopo non ti chiama. Non è che devi tagliare la strada, non guardi dove stai andando, tagli la strada agli altri, dai guidi come ti capi. E vabbè, scusami, ma non c'è bisogno di incazzarti. No, non mi sto incazzando. Se tu che ti dice vado dalla macchina, come ti dice vado davanti i boss. Allora, c'era di tutti i colori sulla strada già. di tutti i colori, e purtroppo, bisogna avere pazienza, grande pazienza, perché poi, ci uscirà qualche mezz'ora in più, tu vai a spiegarli, cosa è successo, e poi vai a ritrovi chi non può sentire ragioni, chi si sente padrone della strada, sai, e la generosità bisogna sorvolare, capito? Io sai, non gli ho detto niente, l'ho solo suonato perché mi ha stretto la strada, è lui che se ne è sceso, capito? Il bello è quello, se ne farà della macchina. Con questo telefono in mano ancora, ascoltando a, la telefonata, capito? L'ho attaccata all'orecchio. E se ne è mai, tu dimmi. Ho detto, dimmi, a chi non ti sei avvisato che mi è tagliato la strada? Ho detto, oh, non mi sono accorto, e poi forse ho detto, stai parlando al telefono, se sono modi di fare, cioè, tu sei attaccato al telefono, non controlli dove sei andato. E così, crei pericoli a te e alle altre persone, non ho capito. No, vabbè, scusami, ma non ti arrabbiare, dai. Vabbè, io non mi sono arrabbiato, io sono così da dire, ti taglio su una tu, per stare attento, perché se no ti sbattivi. Chissà che mi ha fatto impressione che se ne è fatto dalla macchina è giunto verso di noi, compreso, e bene, a vedere cosa volevo. Forse lui pensava che era qualcuno che lo conosceva, capito, che l'avevo suonato per questo. Tutto circolare, diciamo. Secondo, me era la paradossano, lo già. Aspetta un attimo, sa, per la vostra l'avete calpestata, ma si sa. Ok. Ok, ma vi approfitto signori, vi saluto circolarmente, dai, buon continuo con tutto. Ciao Sa, ci sentiamo, buonanotte. Cazzo, ciao Sa, buon proseguimento e buonanotte, alla prossima. Avanti Antonio. Ah, buonanotte, dai, ci sentiamo alla prossima. Ah, Giuseppe. Sandri, buonanotte, buona carica, domani quando la fai, è un buon trabacco per domani. Riprendete voi, dai. Beh, Pierpaolo, cazzo, una buona anima, ogni tanto ti fai vivo tu, no? Cazzo, ma te hai ragione, buona carica, non vale quando la fai, bro. E volevo fare a ridere un po', mi cazzo, pare che questo cane sia almeno abbiamo riso un po', e se non metto qui le faccio. Sicuramente, non è che è venuto per picchiarmi o roba del genere, pensavo che io l'avessi suonato perché lo conoscevo. Si è guardato dalla macchina, tutto gufito, con il telefono in mano attaccato alla legge. Adesso ti puoi dire come vedere, no? Mi ha detto prima una frase. E tra l'altro anche in torto. Allora io l'ho inseguito, no? Ho detto che non avevo sbagliato la frase che ha detto. Se lui non si è neanche accorto che l'ho seguito, è entrato dentro un cappallone, mi sono comodato la macchina, come se avessi comodato che mi affliccio, tanto mi ha un uomo invece, non è cos'è, un coniglio, sono parato, no, non mi picchiare, ti prego, non mi picchiare, cazzo, guarda, mi ha fatto schifo anche. Mi ha fatto più lungo sì, ti farei mai pure così un ciaffo. Cazzo, lei ha detto di tirarsi il culo, e come a parlare al fischio sei stato capace a dire quella frase che hai detto, che tra l'altro sei tu e non solo. Cazzo, che mi ha detto di tirarsi il culo, ma proprio a offenderlo di brutto, era un coniglio, guarda, un coniglio, ha detto, cazzo, ma tu uomo così, dici le cose, però sei responsabile di quello che dici. Thank you. avessi lasciato da parte, o ti saresti messo tu da una parte, avresti visto quello che hai fatto. Facciamo vado alla Gorsiana, siamo andati dalla strada, ero bolla, Gesù nadono. Normalmente è peccato per stare attento, ma Giovanni non mi si chiude innanto. Non ha visto a me che io stavo, io ero sulla mia corsia tranquillo, per salire verso Sassari, lui è girato da una corsia all'altra. Sì, ma era al telefono, non poteva accorgersi perché lui era intento alla telefonata. Capo, volevo dire una cosa a Luca. Luca, ci sei? Carini, per te. Lo sai che è una cosa simile proprio a Luca, a te, così. Ma ecco io, praticamente è uscito una cosa del genere. E l'altro amico diceva, guarda, boh, vedi un po' di farlo maturare, dice, si sono rose più di l'anno. E lui praticamente si è andato a casa, metteva questa fuma, metteva il chiolo anche, no? Ha messo in verità per vedere se riusciva a pulsare il collo. E allora dopo 15 giorni dal medico, il medico l'ha guardato e dice, su Maria, qua ti faccio ricoverare subito, l'ho ricoverato. Quando l'ho ricoverato, un'altra notte è morto in cancrena. No, lui io te lo volevo dire, ma non te l'ho detto per non spaventarti, cazzo. Per paura si è andata tutta canta. A me è paura, è morto, un'altra volta è morto, cazzo, calca, ha pegato. Tu te ne hai fatto, per favore, te la vedo con cuore. Guarda, ti dice, allora, cioè, sono tanti fortunisti che sono malavette già. Cioè, mi sa che tu li usi per il lavoro, no? Sai, non mi è mai successa una cosa del genere, mai. Strano, strano, guarda che strano. Cazzo, ma ok, la gingata di Burapedi, per i scivotti, non so di sogo, non so neanche io cosa mi è successo. Infatti lì che continua sempre a uscire, per me è stato le carte bagnate adesso. Poi le scarpe antifortunistiche mi stancano tutta la gamba, proprio arrivo a casa che sono capelli di lato. Luca, guarda, in Italia adesso non me lo ricordo, comunque è una cosa normalissima, diciamo normalissima per quanto ci possa dire, però dovresti comprare un tubetto di etiolo, una garza, lo compri bene con un cerotto, una cosa, e quella non la perdi lunga, te ne toglie fuori il bruscetto, cioè te lo toglie fuori. Adesso non mi viene bene, il nome del preciso non mi viene bene, comunque è una cosa detta da lunga, compressa. E va a fare una volta qua che fai, vabbè, c'è un'infermiera, ecco. Però tu vieni a te, te due, dove gazze sono? Allora appunti, questa gazza qua, a quanto mi ha detto lui, questa pomata me ne salta la lunga vecchia, e invece c'è la lunga nuova. Lunga me ne salta, l'etiolo ce deve mettere, l'etiolo. L'etiolo è quello che fa, lo fa maturare, capito, più velocemente, il tempo di... In due giorni te ne fa uscire tutta la materia che c'è dentro, non corre nessun rischio, da cazzo, cazzo. Quella lì esce anche nelle dita delle mani, qui. Molte volte, cazzo, non lo chiami, te lo ricordi come si chiama? No, non mi viene il nome, però l'etiolo c'ha ragione perché ti fa uscire l'infiammazione, ti butta fuori tutto il pus, se ne è, ma a quanto mi stava dicendo lui è siero, Pierpaolo, non è proprio pus. Sì, è appunto che è siero che si trasforma in pus pure quello, invece se lui subito ci mette l'etiolo non gli dà il tempo e quindi ma con l'infezione va, perché poi se non si trasforma in infezione mettendo l'etiolo glielo fa maturare subito, capite, glielo butta fuori, che quella lì poi da sottolunghia spunta fuori verso la pelle, se lo lasci così ci mette molto più tempo, invece l'etiolo lo fa maturare subito. E praticamente non gli dà tempo di niente, poi l'infiammazione è la tigua, capito? Sì, dicevo, ce l'avevo anche a casa di mamma, io lo usavo. Era un barattolino quello che c'avevamo, ma con la croce azzurra disegnata, e il barattolino verde. Sì, comunque sì, vai, non... Allora, ripeto, quella al piede destro, Gianni, era l'angolo, era troppo alta. Praticamente quando mi avevo le dita, mi toccava con l'altro dito a fianco, no? E mi raschiava. Allora, quando c'è su, quando l'ho bucata, costruzione è scesa, proprio è scesa, adesso è in piano, non tocca più, capito? Perché è talmente, cioè, talmente liquido dentro che è una cosa allucinante, ha spruzzato, uno l'ha bucata, ha spruzzato, sembra qua, uno spruzzino. Allucinante, ma ha spruzzato. Ma Luca, se tu continui così, quello lì continua sempre a uscire, perché non... Il maledetto continua sempre a formarsi così. Mentre invece se le metti nel timone, lo sfoga dopo una volta, cioè praticamente lo fa maturare, no? Lo trasforma ancora poi, quando tu, dopo due giorni, se tu hai nel timone, lo ripulisci le cose. Se tu lo premi, ne esce tutta una volta perché è maturato, capite? Non lo blocca. Adesso vediamo se riesce a fare due qua. Comunque, il dolore è sparito, lo sai. Quando io praticamente lo toccavo, no? Adesso lo toccavo con l'altro piede, e allora era più forte, adesso era molto molto di meno, forse magari per il via del liquido, no? Poi certamente, certamente, quello lì è quello, c'è il liquido dentro, è così, proprio dolore. Va bene, ok, no, io vi devo lasciare, che devo andare a fare delle cosette, quindi vi lascio. Vi auguro una buona notte, a risentirci alla prossima. Saluto a tutti quanti circolari, dai, ciao ciao. Ciao ciao Perpa, buonanotte anche a te, dai. Avanti Leoncino. Ciao Perpa, buonanotte. È un buon trabacco per domani. Se coincide, ok. Riprendete voi, dai, tanto sto chiudendo anch'io perché gli occhi mi stanno già chiudendo. Ciao Perpa, buonanotte, alla prossima. Avanti, già riprendi tu. Sì, io già salutato, c'è Bombolino anche, avanti Bombolo. E scappa. Sai il diolo io quanto ne ho usato, ohia. Nero è lui. E marroncino, sì. Scappa, io li ho usato perché io ce ne ho avuto pezzature. Adesso, grazie a Dio, un pochettino, ma se ne ho avuto pezzature serie anche. E quindi di quella roba te la conosco pure io già. Te la conosco da quando sono a casa di mamma, da quando ero a casa di mamma. Lo facevano addirittura prima in barattolo, tipo quello del lucido, così. Lo usano in ospedale così, alla farmacia lo danno in tubetto. Può darsi che ce l'avesse portato qualcuno all'ospedale, io se ne so, conosceva qualche infermiera, mamma. Che la fa? O magari prima lo prendevano così, anche. E comunque anch'io già l'ho usato, già so cosa vuol dire quella roba. E fiammuso. E però la fine ti guarisce. Sì, sì, io già lo conosco. Lo usava mio padre. Molto mio padre lo usava. Ogni tanto mio padre si prestava a dita, cosa col martello, mettendo i chiudi, faceva. Scappa. Guarda, anche qua, anche le bombole sono imprevedibili, se è proprio un lavoro che non sai fare. La prima cosa che ti fai è ti metti le dita, perché quando non lo sai fare è così. Come fa a prestarti di tanto quando sono insieme, quando sono sulla moto? Quello ti può succedere sulla moto, ti può succedere quando sono a tre file, a due file. Cioè, quando fai... Il primo periodo mi ha prestato molto le dita, poi ho imparato. Adesso se non c'è tre pezzi è proprio per distrazione. Una volta, cioè, me lo sono anche spaccato. Devi stare molto molto molto attento facendo quel lavoro lì. Non è voi non so pronto. Perché le dita sono... Cioè te le puoi pensare in qualsiasi momento, è un attimo. E tutti i lavori comunque sono pericolosi, se non stai attento. Da noi quante volte le salumiere si affettano il dito, e... Chiappa, sono lavori che non ti puoi permettere di distrarti. L'ho portato una da poco all'ospedale, ma l'ospedale, al pronto soccorso di Apollo Torres, si è da mangiare tutto il propastrito. schiappa. Terribile sono, sono veramente terribili quelle, quelle cose lì. Comunque buono palloncino, non sono dimenticato. Io gli ho messo qualcosa, tutte le pesature che ha avuto, ma tutto il primo periodo era allucinante. Poi ho imparato bene, cioè adesso quello lì è il mio mestiere, cioè. Sono molto attento, però molte volte si può fregare. Se non succede, ti basta una piccolissima distrazione e ti butti. Beh, un po' a tutti è così. Che succede? Tante volte all'esperienza sei talmente convinto di non sbagliare che poi a volte sbagli più di quelli che sono inesperti. Tante volte, a me mi ha accusato di barriere dei sportelli, una volta col vento mi ha crepato il labbro e mi ha spaccato anche il dente di davanti. Chiappa. Io ho preso la porta in piedi un giorno. Una volta mi sono fermato per scaricare una spesa, a fare una consegna. Apro lo sportello e non mi sono accorto che c'era un terrazzo sopra. Lo sportello ha sbattuto al terrazzo, come l'ho aperto, mi ha dato rinculo, mi ha fatto fare l'effetto molla. Se sono riuscito, se tu mi avessi visto non ci avresti creduto, c'è cazzo di gente col peso che va come ti vale. Una molla ce l'ha presa e ci sono riuscito a sparare e ha sbattuto il sedere, ma di brutto a terra. Cazzo! Adesso vediamo un po'. Comunque stavo leggendo sui, allora se tu scrivi Gianni su internet quando piace l'unghia al viola, ecco, ho letto male io, cazzo mi auguro di capire, vabbè, ci sono allucinate, cazzo, boh, ha rotto la balla, ha rotto, eh. E tu vedi comunque quando piace l'unghia al viola è un, praticamente una specie di tumore, boh. Poi se è roba, allora tu di cosa può essere, sia le scarpe, sia roba di circolazione, sia una pestatura, e sia un'infezione, potrebbe essere tutte queste cose qua, non penso che sia roba grave, questo tumore, addirittura. Vabbè signori, io vi saluto e vi auguro a tutti quanti una buona notte, dai. È un buon trabacco per domani. Ciao ciao da Leoncino. Ciao Leoncino, tante cose belle. Che buonanotte da parte. Ciao Giuseppe, buonanotte, buona giornata per voi, buona carichetta, buon tutto, alla prossima, ciao. Ciao ciao. Volevo dire solo una cosa a Gianni. In giro di lavoro è meglio essere svelti che non esserlo. Perché l'ha già provato. Perché se sei aperto te la puoi cavare sempre, perché sai come togliere subito la mano, sai come fare le cose. Quando non sei aperto ti puoi fare più male ancora, tranquillo. Io so, ma tante volte la sicurezza non tutti frega. Sei sicuro di saper fare e a volte si sbaglia, come tutti. Io per dire, il giorno che chi poteva immaginarsi che c'era un terrazzo sopra, ero talmente svelto lavorando che ho preso lo sportello di colpo, come si è sbattuto al terrazzo, mi ha dato il rinculo, boh, si sono riuscito a sabbarsi, che se subito mi sono guardato attorno a vedere se c'era gente, ma non riuscivo manco a sollevarmi dalla pestatura che ho preso. Io ho preso la porta in pieno, ho preso... Dico che mi ha fatto accattare in terra, però c'è un ematoma grosso, che l'hai visto già. E come con gli ematomi non c'è da scherzare. Io la volta che sono caduto in moto, che ho sbattuto quel codolo che c'è sulla Budi, se si è fatto un ematoma, tu se lo vedevi era spaventoso, ha cominciato dalla coscia, mi ha preso tutti gli organi genitali, dietro, dalla pancia, mi arrivava sino al petto. Ma ti dirò che in giro di 2 settimane già è cominciato a sparire, Boh, non lo so, mi passano subito le cose. Io ho visto l'esperienza che avevo avuto, che ero stato all'ospedale per un ematoma, sono andato a pronto soccorso. Quando mi ha visto il dottore pronto soccorso mi voleva ricoverare, ho messo la firma per ricoverarmi. Mi ha detto, guardi che si mette questa pomata, guardi che è molto pericoloso. Io così grande non ne avevo mai visto in vita, mi ha fatto... insomma, donna, dice... Mi ha mandato anche a visitarmi davanti, tutto quanto, mi hanno fatto la lastra, tutto grande. Certo. Pericoloso. Purtroppo possono succedere incidenti. Oh, yeah. Magari lo sai cosa succede? Che quando sei in presa di ammalettone non ti succede niente, diciamo che sei tranquillo di fronte a un coso. E ma è meglio che non succeda quando sei ammalettone, che perché se ti succede ti fa male veramente, perché per dire, il giorno che io ho sbattuto lo sportello a quel terrazzo, che mi ha tolto in culo, era in fretta, ha già buttato lo sportello velocemente, boom, cartone e barrianna, ma una cosa del genere mi è successa. Infatti adesso controllo sempre su prima. Vai così, quando sono tranquillo, fermo. Prima adesso di aprire lo sportello lo controllo sempre su, adesso da quando mi è successo non mi butti più. Non mi accendo come diverso, qui tu mi dai, no? Peggio. Io se so che cosa è una buccia, non mi butti più. Avanti. Ho notato che non c'è più nessuno comunque, già hai visto, non, ma neanche al 5, non sta più muovendo nessuno, più nessuno. Adesso l'acqua, faccio una cosa, praticamente, vabbè, questo cavo lo lascio qua, il commutatore qua lo metto vicino alla finestra, con due tasselli, e ci metto un pezzo di, come si chiama, di, no, una prua, diciamo, di cavo. E ci ho messo la baracca, dove lo sposto? Dove la... Mi so giù. Sotto in cameretta, poi di stato dal letto. No, io per me è troppo comodo vicino al letto, perché io mi sdraio, se sono stanco mi fa male la schiena, a volte mi sdraio e modulo tranquillamente da lì. Che va bene così. Poi sì, c'ho sonno, un conto, però... Quando non c'ho sonno, modulo tranquillo, dai. Non mi piace qua perché c'è un vicino, mi gira, vedo tutto. Sono sempre, comunque ti volevo dire, sono sempre capicializzato a fare indiricare. Però mi sono anche un po' calmato quando ho fatto il volo di 5 metri e mi è andata bene. Cosa hai fatto con le 5 vite? Io non ho fatto un volo, al minimo sarà stato dal primo gradino del primo piano, pensamente a giù al portone che c'era anche un pochettino di corridoio. Ma io una volta sono caduto col carrello, c'è uscito tutto il palazzo. Mi sono spaventato un po', non mi sono fatto niente, sono arrivato a terra tranquillo. Però poi c'era quella signora che si è assustata, si è pigliato un raggio. Allora per lei gli ho riso in faccia. La bombola mollata niente? No, sono atterrato io la bombola, tranquillo, senza succedere niente. Mi ci cado. Manco lo so come capo l'ho fatto, ma tu sai che ti sono uscito così, ha già fatto l'atterraggio così, cioè proprio, come ti posso dire, ha tipo paracadute. Vabbè, ne succede, no? Succede, l'altra volta c'era un vento pazzesco, è vero, lì vicino allo studio dentistico dovevo scaricare via lo studio di questo dentista, dovevo portare dei cosi, dei fazzolettini, acqua distillata, tutta questa roba qua. faccio, mi fermo, vado a aprire lo sportello, il vento spinge, ma spingeva, ho cercato di attaccarlo, mi sembrava attaccato con me lo mollo, boom, mi così di barriata, mi è paccato labbra e così, stavo andando al dentista, ho continuato a scaricare, mi sono guardato se il dente è spaccato, porca vacca. Vabbè, salgo su e il dentista mi ha visto che stavo tutto sanguinato, tra l'altro è successo. Lo sportello mi ha fatto un colpo, mi ha spaccato anche il dente. Mette 5 minuti ce li hai. Che ti medico ti riesce io. Per me è meglio la salute prima, no? Mi sono medicato, poi metto, fai vedere questo dente, aiuta che te lo faccio veloce, così non ti vedo nemmeno col dente rotto. E mi ha fatto. Gappa, gappa. Ma per fortuna mi poteva fare molto male, insomma, ma per fortuna non mi è successo niente. Un'altra volta, molto meno di quello, cazzo ti metti pigliato un colpo in faccia. Ma siamo l'ho cavata lo stesso. Cazzo il giorno ci sono sceso, chi ti ha assustato a poveraccia? Ha pigliato un raggio. Cazzo non lo so, da pure ti ho riso pure in faccia, più un macchio di chi se ne vuoi. Ma la pigliato va a mancare. No, poi adesso mi sono un pochettino più calmato, già. Ma prima cazzo, però già ci sono sempre a manettone fino a quarto quando siamo a piedi, però già sono più tranquillo, non è che non sono più come prima, dai. Antonio, così sforzi il cuore, ricordatelo, non correre, non agitarti, che l'orgoglio è sempre una cosa da stare attento. Io non sento tutta questa cosa come dite voi, tutta questa grande fatica, sì, ma un po' di fiatone sì, ma non, cioè non a morte, mi hai capito? Boh, sarà perché sono abituato, no? Non lo so. No, ma lo dico a morte, non devi aspettare che, ma dico, se tu riesci a farlo, non dico cazzo di farle all'allentatore, ma che lo fai un po' meno furioso di quello che sei, perché io ti ho visto caricare la bombola e fai tutto a scatti, tutto, sembra che abbia un ticchio, cazzo. No, non ho un ticchio, è il mio modo di, fare proprio, la velocità, hai capito, di farlo. Io non sfido un'altra persona a salire come ci salgo io nelle scale. Ti dico che mi esce la lingua in terra, mi esce. A me non mi esce. Ti arrivo al terzo, mi riporto due minuti e sono a ripartire. Ma io le scale le facevo anche a 3-3, a 4-4, vento. Non è che rialzavo pure un'alzata quando la portavo a mano la roba, ma adesso non mi conviene più, mi conviene col carrello. Scappa. Vabbè, ma io lavoro in diversa maniera. Non ho problemi, se mi, cioè, non, molte volte se vado arrivo fino al terzo, dopo due sostine, tranquillo, poi riparto via fino al quarto, quinto, sesto, canto di voi. Gappa, gappa. Lo cresce. Da questa grossa fatica, anzi, il contrario. Ci sono alcuni momenti che mi sento proprio grintoso al massimo. Alcuni momenti la verità non è che sono molto tranquillo, alcuni momenti gioco un poco, hai capito? Stravagante. Scappa. Sei via. Gambe ci vogliono. Gambe, braccia, qui. Scappa. E ma da buia a furia di sforzare anche quelli lì. Ti domanda il rugonto, tu, come si dice l'attarino. Da voi un fisico ti domanda il rugonto. Scappa. Ma io la verità sono abituato al mio lavoro, quindi io non sento gli sforzi. Se tu prendi una persona di 40 anni e lo metti a fare il mio lavoro, cioè no, non ce la farebbe mai come io che sono da ragazzino facendo quel lavoro lì, salendo le scale. È diverso, cioè, io ce la faccio tranquillamente, non sento molti problemi, prima un pochettino mi dava fastidio. Adesso come ho lasciato la sigaretta, cioè, mi sento ancora meglio e vado alla grassa, hai capito? E vabbè, ma insomma con quello, il cazzo quinto c'ha 78-79 anni, se non la bulli più, e in busta di bombole, non è che non le porta. Non dico che faccia le scale a 4-4, però le bombole le porta si da su. Ma quinto quanto tempo c'ha? Quinto non sta più, non sta quasi portando. Quinto, quanti anni c'è lavorando? È quella la differenza. È come che tu prendi, metti un pilota un pilota che incomincia a guidare in carte da 8 anni, lo metti su una macchina più potente ancora che arriva all'età, arriva per guidare una macchina di Formula 1, una cosa, e vince anche il campionato. Supponi una persona di 20 anni, gli viene molto più difficile, gli viene, è la stessa cosa. Vabbè, ma comunque ce ne ha produttori, ce ne sono che hanno l'età mia anche che ne portano di bombo. C'è quello di Cori, il Puscito, che l'ho visto anche l'altro giorno, avrà 45 anni, 48. Chiappa, però più del terzo non va, a rovere come il terzo. E quanti anni ha cominciato lui? Cioè, a me mi pare che tu sei facendo questi trasporti qua, portando merce e cose, cioè, sei da ragazzo, sì. Cioè, è diversa la situazione, c'è poco da fare. Io sono da quando avevo 18 anni. Circa 18-19 anni, Chiappa, sei sempre su quel campo lì, cioè, non vedo cavolo, non c'è nulla da fare, è quello il tuo lavoro. Così io sono da qui, da quando ero ragazzino, quando avevo i miei 14 anni, portendevo un po', il mio 26, è quello il mio lavoro, non ho mai fatto altro. Se mi metto a fare altro ho molto da imparare, però non so se sia al 1000 per 1000, cioè al 100%. Lo farò lo stesso, perché però non è il mio lavoro, il mio lavoro è portare le bombole, salire le bombole su, è quello. E vabbè, ce ne sono lavori magari che puoi fare che sono anche più leggeri di quello lì, almeno venissero. Chiappa. Però purtroppo mi sono talmente abituato che quando mi fanno un altro lavoro sì lo faccio, ma non alla perfezione, perché non è il mio lavoro. Poi magari nel tempo mi perfeziono, soprattutto se è un lavoro un po' pesante, fare muratore e cosa. Mi sono già abituato a lavorare pesante, però non l'ho mai fatto, non sono come magari una persona che l'ha fatto cosa si può dire, a 18 anni, c'è un po' di anni, così, capito? Io. Non si fa poche. Lo sto facendo, vaffanculo. No, io. A parte nervosissima, sarebbe il tiro rilassante. Chiappa. Tu capo, questo là è quel video, sul mio profilo. No, Arturo. Poi guarda, te lo fai. Chiappa. E altro io mi pare minando tutto cantannando, che sono bello stanco. Vi saluto tutti, e me ne passo tutto in quelletti. 7351 tutta la ruota, doppio un quelletti esecutivo. Buonanotte a tutti. Ciao.